24 ci sarà il Global Strike di Friday for Futures, a cui parteciperanno poi tutte le realtà che confluiscono nella rete della lotta ambientale. Quindi andiamo, diciamo, a riprendere il filo del discorso sulla urgenza, sull'emergenza climatica ambientale, insomma, quella che è sotto gli occhi di tutti e che anche purtroppo nelle ultime scelte di governo, insomma, non vediamo particolarmente rappresentato come problema, e quindi vogliamo un po' ribadire il concetto che siamo in emergenza e che dobbiamo fare delle scelte radicali per uscirne. Domenica ci sarà un'assemblea pubblica della rete delle lotte ambientali e lì presenteremo alla cittadinanza il documento che abbiamo elaborato nei mesi scorsi sui temi ambientali specifici di Bologna, ma che comunque hanno poi una dimensione anche globale, perché chiaramente quando si parla di problemi climatici non possiamo considerare problemi esclusivamente locali, però lì presenteremo questo documento e qui andremo a ribadire un po' le nostre posizioni su alcuni temi cruciali per la città, come per esempio la mobilità, quindi la nostra contrarietà sicuramente al passante di mezzo, il nostro stimolo invece verso misure di mobilità sostenibile, quindi sviluppo di trasporto pubblico, di sistema ferroviario metropolitano, di ciclabilità, di pedonalità, di limite di velocità anche per garantire maggiore sicurezza agli utenti deboli della strada. E quindi insomma presenteremo questo documento e poi ci sarà una serie di tavoli di discussione in cui raccoglieremo anche idee dai partecipanti e cercheremo di approfondire con loro direttamente questi temi. In quell'occasione presenteremo anche la prossima manifestazione della rete delle lotte ambientali che si terrà ad ottobre, e in quell'occasione torneremo finalmente in piazza, in pubblico, a presentare, insomma, a manifestare per la nostra idea di città che non coincide assolutamente con quella delle scelte di governo che attualmente, insomma, vediamo praticate. Infatti volevo chiedervi proprio un giudizio anche su questa campagna elettorale, sui programmi per quanto riguarda l'ambiente e il clima. Non li ritenete adeguati? No, non li riteniamo adeguati perché sono insufficienti, non sono radicali come vorremmo che fossero, insomma. E adesso va molto di moda la sostenibilità e tutti si dichiarano molto green, molto ecocompatibili, molto sostenibili, però ci sono scelte molto molto criticabili, per esempio quella di considerare sostenibile una fonte di energia come il metano, che è una fonte fossile, oppure considerare sostenibile l'allargamento di un'autostrada in mezzo alla città, che per quanto la vogliamo fare green e sostenibile con tanti pannelli fotovoltaici, resta sempre un'autostrada di gioco così in mezzo a una città, e quindi un incentivo diretto all'uso dell'automobile, la conferma di un modello di trasporto delle persone e delle merci tossico e che assolutamente non possiamo accettare. E noi vogliamo invece vedere gli investimenti e l'impegno dell'amministrazione pubblica orientarsi verso altre forme di mobilità sicuramente più sostenibili, che sono la ciclabilità, la pedonalità, il trasporto collettivo su ferro, insomma, cose molto diverse da quelle che ci vengono proposte.